chiesto di fare una conferenza su qualche argomento di filosofia della scienza, cioè ci sarebbero tante cose, però ho scelto questi due filosofi perché sono i più noti, i più conosciuti, quelli più, insomma, di cui si parla di più. Uno è appunto è Popper e l'altro è Thomas Kuhn. Allora, prima iniziamo con Popper, che ha avuto anche una storia personale particolare. Beh, prima cosa vedete che lui ha vissuto tanto, no? Cioè, è nato nel 1902 in Germania ed è morto in Inghilterra nel 1994. Era di origine ebraica e quindi, quando dico già questo, essendo nato in Germania in quell'epoca, già si capisce cosa ha passato. Non è andato nel campo di concentramento, è andato via prima. Però, insomma, anche questa vicenda del nazismo lo ha toccato molto, ecco, diciamo. Però questo non ha riguardato la sua filosofia della scienza. Comunque, insomma. Allora, una cosa che si chiede Popper è, appunto, si fa questa domanda. Questa l'ho proprio presa dal suo libro, tale quale. Esiste un criterio per determinare il carattere scientifico di una teoria? Cioè, tradotto in soldoni è: come si fa a definire scientifico qualcosa? Per cui, non so, perché studiare il DNA è scientifico e studiare l'oroscopo non lo è? Da che cosa si capisce? Ecco, si fa questa domanda perché erano gli anni del progresso scientifico, lui, insomma. E poi nel 1919, appena finita la guerra, succede una cosa molto interessante. Erano gli anni in cui nascevano tre grandi teorie di cui si parlava, insomma, si parlava tanto in quei tempi. Una è la psicanalisi di Freud, okay? Una il materialismo storico di Marx, che voleva essere una scienza. Beh, Marx, sappiamo, ormai non c'è, cioè, materialismo storico è della metà dell'Ottocento, però gli anni dell'inizio del Novecento, che cosa succede in Russia nel 1917? Insomma, il materialismo storico, Marx diventa proprio una politica attiva, quindi c'era un gran parlare di Marx, del marxismo, e anche questo veniva definito una scienza. E poi la teoria della relatività. Lui dice: ma a me salta subito all'occhio che tra la teoria della relatività di Einstein e le prime due c'è qualcosa di diverso, okay? C'è qualcosa di estremamente differente. Magari parliamo un po' insieme. Secondo voi cosa c'è di diverso? Noi adesso individuiamo subito, no? La teoria della relatività è scientifica, la visione della storia di Marx non lo è. Allora, vi dico io che cosa è successo. Praticamente quell'anno lì è successo che uno scienziato inglese, Eddington si chiamava, ha dato la prova sperimentale della teoria della relatività di Einstein. Cioè, praticamente Einstein aveva previsto, in base alla sua teoria, che era considerata molto bella, però un po' fantasiosa, però lui aveva previsto che durante un'eclissi di sole la luce sarebbe stata attratta da... anche non durante la crisi di sole, cioè la luce viene attratta da un corpo pesante come il sole, come tutti gli altri corpi, e questo si vede soprattutto durante un'eclissi. Si vede che la stella che gli sta dietro durante l'eclissi dovrebbe sembrare un pochino più lontana di quello che è. Non so se è chiaro. Più o meno. Comunque, fidatevi, è così per la relatività, una serie di motivi che non vi sto a dire perché vi annoierei terribilmente. La stella dietro il sole dovrebbe sembrare proprio in quell'attimo lì un po' più lontana e poi riavvicinarsi, cioè dovrebbe sembrare la luce più lontana. E tutti dicevano che questa era un po' un'assurdità. Allora si cerca di fare questo esperimento già nel 1915, però nel 1915 si sa che il mondo è devastato dalla prima guerra mondiale, avevano ben altro a cui pensare, e quindi viene rinviata al 1919, e Eddington vede attraverso una serie di sperimentazioni che effettivamente la luce durante della stella dietro il sole durante l'eclissi è più lontana, ok? Cioè viene dimostrato in modo sperimentale la teoria della relatività. Okay? Quindi questo colpisce tantissimo Popper, che si mette in contatto con Einstein e diventano poi grandi amici. Poi questa amicizia non finirà praticamente mai, fino alla morte di Einstein loro rimarranno tanto molto legati. Solo a pensare che dopo la Seconda Guerra Mondiale, però, quando si trovavano, pensate, parlavano solo in inglese, perché tutte e due non accettavano più il tedesco dopo quello che è successo, insomma. Va bene, allora Popper dice: fu durante l'estate del 1919 che cominciai a sentirmi sempre più insoddisfatto di queste tre teorie, la teoria marxista della storia, la psicoanalisi e la psicologia individuale. Cominciai a dubitare delle loro pretese di scientificità. Allora si chiede che cosa c'è di diverso e arriva a una conclusione interessante. Dice: ma il marxismo, un marxista che non poteva aprire il giornale senza trovarvi in ogni pagina una testimonianza in grado di confermare la sua interpretazione della storia. Cioè, e questo vale un po' per tutte le teorie politiche, uno che crede in una teoria politica, qualsiasi fatto succeda, lo conferma. Dice: vedi che è così. Non so, se uno ce l'ha con gli stranieri, non so, se qualsiasi persona conosce, sia buona che cattiva, dice: beh, vedi che effettivamente è così come dico. Allora questa era la differenza. E soprattutto anche riguardo Freud, lui dice, qua fa un esempio famoso e dice: ma Freud riesce a giustificare sia un uomo che si tuffa in un fiume per salvare un bambino che sta annegando, ma anche uno che prende un bambino e lo annega. Cioè due comportamenti completamente contrari nella teoria della psicoanalisi trovano comunque un significato. Ok? Cioè, ci siete fino a qua? Vedo molto perplessi. Ok? Infatti, queste sono le parole. Dice lui: posso illustrare questa circostanza per mezzo di due esempi assai differenti di comportamento umano. Quello di un uomo che spinge un bambino nell'acqua con l'intenzione di affogarlo e quello di un uomo che sacrifica la propria vita nel tentativo di salvare il bambino. Per Freud il primo uomo soffriva di repressione, per esempio di qualche componente del suo complesso di Edipo, mentre il secondo uomo aveva raggiunto la sublimazione. Vabbè, adesso non entriamo nel merito, però insomma Freud trova, dice Popper, ma è anche vero, una giustificazione per qualunque comportamento, insomma, sia che uno sia estremamente altruista che uno che sia totalmente egoista. Mentre ciò che distingue la relatività da queste due teorie è che la relatività segue degli esperimenti e gli esperimenti sono capaci o di confermarla o di falsificarla. Okay? Cioè, mentre la psicoanalisi è sempre vera, perché qualsiasi cosa riesce comunque a trovare una giustificazione, e anche le varie teorie politiche, per la relatività di Einstein, come per tutte le altre teorie veramente scientifiche, non è così. Cioè, di fronte a degli esperimenti considerati cruciali, cioè proprio perché viene da experimentum crucis, cioè o è così o è così, si stabilisce se una teoria è vera o è falsa, e questa è la differenza, e cita qua l'esperienza di Eddington, che mostra che la teoria della relatività corrisponde all'esperienza. Se durante questo esperimento non si fosse verificata questa cosa che prevedeva Einstein della luce, che, della stella che sembrava più lontano, probabilmente si sarebbe chiusa la relatività e non se ne sarebbe parlato più, anche se in realtà poi non è così. Però lui dice: c'è uno spartiacque tra scientifico e non scientifico, uno può essere dimostrato e l'altro no. Però, dice lui, il problema è come faccio a dimostrare. Allora mi baso sull'esperienza. Da una parte teorie che qualsiasi esperienza vengono giustificate, dall'altra teorie che con un'esperienza si sceglie giusto o sbagliata. Però come faccio? Allora c'è il cosiddetto metodo dell'induzione, cioè si chiama così. L'induzione consiste nel vedere un caso, due casi, tre casi, 10, 100 casi, poi uno si accorge che succede sempre la stessa cosa, non so, tutte le volte che, non so, butto l'acqua sul fuoco, il fuoco si spegne, lo faccio una volta, 10 volte, 100 volte, succede sempre così, allora deduco, arrivo alla legge scientifica, l'acqua spegne il fuoco, no? È un po' la legge dell'induzione. Però c'è questo paradosso chiamato il tacchino di Russell, perché l'aveva inventato Russell, e dice, beh, il tacchino, mettiamo caso, il tacchino è uno scienziato induttivista, vede che tutti i giorni gli arriva il mangiare alle 9, riceve da mangiare, però non è uno scienziato stupido che conclude basta, no, fa tutta una casistica e vede che quando piove riceve da mangiare, quando fa freddo, quando è caldo, sempre, allora conclude alle 9, arriva da mangiare, però un bel giorno, bello per il contadino, brutto per il tacchino, non sarà così, perché arriva il tacchino alle 9, invece che portare da mangiare, lo uccide e mangia lui, insomma, lui diventa il mangiare. Quindi questo è chiamato il paradosso del tacchino di Russell. Quindi cioè, l'induzione ha un limite, perché noi possiamo confermare una decina, centinaia di casi, però c'è sempre quel caso che smentisce, no? È come diceva anche Aristotele, io vedo un corvo, è nero, 10 corvi sono neri, 100 corvi sono neri, concludo tutti i corvi sono neri. Però poi cosa succede se mi capita il 101° corvo che invece è bianco? Esiste, corvo albino. So che sembra strano, però esiste. Va bene. Allora conclude che una teoria, non, cioè, per stabilire se una teoria è scientifica o no, non basta avere la possibilità di verificarla, ma bisogna avere la possibilità di falsificarla. Cioè, se io sono in grado, con qualche esperimento scientifico, di mettere in crisi questa teoria, allora la teoria è scientifica, ok? Quindi un sistema non è scelto in positivo, cioè se lo posso verificare, perché appunto io lo posso verificare 10 volte, 20 volte, 100 volte, ma se poi la 101esima volta cosa succede se non si può verificare? Allora si può soltanto dire quando le teorie sono false, non quando sono vere, cioè se si possono falsificare. Nel momento in cui io sottopongo alla prova una teoria, se è confermata, allora diciamo che la teoria è corroborata dall'esperienza, ok? Corroborare vuol dire semplicemente fortificare. Quindi più faccio esperienze, più faccio esperimenti, e più viene confermata, fino a che un bel giorno anche la teoria verrà falsificata, perché purtroppo, dice anche Popper, teorie proprio vere al 100% non ce n'è, ok? C'è sempre qualcosa che sostituisce, poi c'è un progresso all'infinito. Ok, questo era Popper. Volete fare domande su Popper? Avete un po' capito? No, io volevo chiedere, sì, a proposito della teoria della relatività di Einstein, questo relativismo si può confrontare, cioè confronto con il relativismo religioso di cui parlava Ratzinger? No, perché per la relatività, è una cosa che chiedono tutti, per la relatività è proprio vero il contrario, cioè le leggi della fisica sono vere e uguali in tutti i sistemi di riferimento relativamente ai sistemi, perché praticamente lui individuava vari sistemi di riferimento e da un sistema di riferimento all'altro ci sono come delle leggi di traduzione, diciamo così, si chiamano leggi di trasformazione di Lorentz, comunque sono come dei traduttori e fanno sì che i rapporti tra delle variabili in un riferimento siano uguali nell'altro. Quindi, anzi, Einstein era molto... Però viene spesso chiesto questo. Avete altre domande su Popper, sulla relatività? No, nel senso, più che altro con rapporto con la psicanalisi, no? Cioè, in realtà possiamo dire che non, appunto, non è una teoria scientifica, no? In base a queste considerazioni, però Poi tutto sommato si pone il problema Popper, però comunque se comunque dà aiuto alla maggior parte dei pazienti, comunque ha un valore, oppure a questo punto toglie completamente valore a ogni... Perché è vero, no. Lui spiega in due modi diversi i due individui, quello che salva il bambino e l'altro che lo annega, però se lo scopo finale è quello di aiutare la persona, penso che comunque sia, ci sia un'utilità. Discute di questo Popper? No? Sì, sì, discute. Dice che ha la stessa utilità dell'arte e della letteratura. È bello, sì, ma... Siamo anche negli anni in cui Freud veniva considerato proprio uno scienziato, era quella discussione tra scienze esatte e inesatte. Sì, però il problema secondo me è un altro, su due livelli scientifici, quello scientifico matematico che è quello di Einstein, quello relativo che è quello di Marx o di Freud. Faccio fatica a leggere la psicanalisi come non scientifica, cioè matematica. Infatti allora leggo due tipi di scienza non contrapposti ma diversi. Probabilmente Popper pensava alla scienza legata alla matematica, cioè la solita cosa tra scienze forti e scienze eccetera, però secondo me è stato deleterio questo, cioè adesso Popper viene deificato in un modo allucinante, ma secondo me porta a un'eccessiva quantificazione di tutto, e questa secondo me non è sempre scientificità. Sì, quindi vero. Secondo me viene troppo acclamato, secondo me. Beh, devo dire che sul piano della filosofia della scienza il falsificazionismo comunque ha introdotto ha dato un input che poi ha portato ad altri filosofi, anche Thomas Kuhn, mentre sul piano politico effettivamente Popper, una serie di cose molto discutibili, insomma. Comunque lui ha scritto questo libricino molto breve, si può leggere perché è veramente semplice, Miseria dello storicismo, in cui prende in giro, anche un po' ironico, prende in giro insomma gli storicisti, quelli che credono che la storia si possa definire scientificamente come una serie di eventi prevedibili, e questo, cioè, in molti hanno detto che gli veniva dal suo vissuto. Beh, questo l'ha detto nel 1919, però lui si chiede perché, se ci fosse veramente una linea guida nella storia, allora non si è riusciti a evitare i campi di concentramento, i gulag, cioè se si riuscisse a intervenire, quello è il discorso che fa lui. Sicuramente Popper era provato da questa esperienza umana, però è vero che probabilmente lui aveva in testa, perché comunque alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento abbiamo l'epoca del positivismo, insomma, poi c'è il circolo di Vienna che fa da padrone nel panorama filosofico. Il positivismo parla di fede nella scienza. Sì, sì, infatti. Fede è un credere, la prova a credere, comunque c'è una fiducia. Certo. C'è quella fiducia cieca nella matematica. Esatto. Sì, infatti. La scienza è comunque, secondo me, prevedibile. Eh beh, sì. Con determinate situazioni. La storia molto meno, perché fa anche l'uomo. La verità, insomma, lui non dispone. Ecco. Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? È più bello se facciamo un dibattito, no? Perché sennò frontale, noioso, non lo so, non si legge un libro. No? Vabbè, allora vi parliamo un po' di Thomas Kuhn. Ecco, Thomas Samuel Kuhn invece è americano, ok, di chiara origine austriaca, dal cognome si nota, no? Lui, sì, anche lui ha vissuto abbastanza, un po' meno di Popper, perché Popper era infinito, ogni volta te lo trovi sui libri, qualsiasi dibattito. È morto anche lui relativamente da poco, nel 95. Ha avuto una vita più tranquilla, perché comunque era americano, anche quello incide. E fa una riflessione a partire proprio da Popper e dice, beh, secondo Popper ci sono questi momenti eclatanti di falsificazionismo, però in realtà lui da storico, perché si è laureato in storia, poi in astronomia e poi in filosofia, Kuhn era uno che aveva voglia di studiare evidentemente. Allora, da storico della scienza, lui dice, ma in realtà la scienza non è questa cosa esaltante, questi grandi scienziati, cioè la scienza per di più sono lunghi periodi di scienza normale in cui gli scienziati sono poco più che degli impiegati che fanno il loro dovere all'interno di coordinate già fisse. Ci sono quindi lunghi periodi di scienza normale, monotona, e brevi periodi di scienza rivoluzionaria. Adesso vediamo cos'è la scienza normale. Allora, per scienza normale, io ho preso le citazioni di Kuhn, così non è che le interpretiamo noi, proprio sono le parole sue, e dice scienza normale per lui è un modello all'interno di una visione del mondo che ha già dato dei risultati. Allora, lui fa un esempio molto pratico. Quando noi studiamo, non so, fisica, matematica, astronomia, io cosa faccio? Cioè, se voi volete studiare fisica, cosa fate la prima cosa? Tutta la storia della fisica? No. Il manuale di fisica. Ecco, uno si prende il manuale di fisica e il manuale di fisica dice la legge, non so, della gravità è questo, ok? La legge della velocità è questo, okay? Spazio fratto tempo. Non è che ti dice sì, però gli antichi greci pensavano così e poi Aristotele, no? Cioè, ti dà come delle verità assolute. Quindi tu, quando vuoi studiare una scienza, prendi tutto come se fosse già fisso. In realtà non è così, perché ogni teoria è arrivata attraverso tutta una storia, quindi c'è stata un'evoluzione, un cambiamento. Uno può dire allora, una volta non c'era il manuale di fisica, però lui dice, ma una volta uno studiava o su quei libri che venivano considerati manuali, non so, l'Almagesto di Tolomeo per l'astronomia, o i Principi di Newton, uno prendeva quel libro lì e considerava già tutto lì, tutto pronto. Va bene. E quindi dici, si riconosce all'interno di questo schema, con queste leggi, uno si muove e trova dei piccoli rompicapi, lui li chiama così, proprio delle piccole cose. E dice, c'è un paradigma, lui questo termine lo usa dalle lingue, dalle traduzioni, perché il paradigma in una lingua, che cos'è? Qua parlate tutti un po' tedesco, no? No, però facciamo finta. Il paradigma di un verbo è il verbo al presente, il verbo al preteritum, il perfetto, e uno da quello poi si muove e fa tutto. La stessa cosa per la scienza. Dice, c'è una serie di cose che prevedono le leggi, le teorie, le applicazioni, gli strumenti, e io questi riconosco come scientifici, altri no. Quindi, cioè, se uno mi arriva con un telescopio e mi fa vedere le stelle, io lo guardo, mentre se mi arriva un altro con una sfera di cristallo e mi dice che con questa ha trovato una teoria scientifica, chi è che gli darebbe retta? Penso nessuno, ok? E lui fa l'esempio di Galileo, quando conosciamo, penso tutti, questa scena dei cardinali che si rifiutano di guardare dentro il cannocchiale, no? Dicono, questo è uno strumento del demonio. E lui dice, è perché per loro questo non era uno strumento scientifico, cioè è proprio come se uno arrivasse da noi o con la sfera di cristallo o non so... con un aggeggio magico, non so, e nessuno gli darebbe retta. La stessa cosa è avvenuta lì, cioè non è che non volessero credere a Galileo, ma non riconoscevano quello come strumento scientifico. Quindi già questo. Anche il linguaggio fa parte di un paradigma scientifico, perché appunto ci sono, ogni paradigma, ogni teoria scientifica ha un linguaggio suo proprio, che poi se si cambia paradigma non è comparabile, ok? Facciamo un esempio proprio di Kuhn. Se ad esempio oggi chiamiamo tutti ossigeno il gas che respiriamo per vivere, una volta si chiamava flogisto, okay? Però il flogisto non è la stessa cosa dell'ossigeno, perché è qualcosa di magico, qualcosa di divino. Oggi invece l'ossigeno è O2, no? Quindi basta, cioè non è, oppure non so, l'acqua per la chimica, un conto è la teoria scientifica chimica che vede H2O, sono è una molecola con due gas e lo concepiamo così. Mentre l'acqua, non so, per il filosofo Talete, 600 anni e anche di più prima di Cristo, era qualcosa di divino, qualcosa era Dio. E quindi non si può, dice lui, tradurre così. C'è un paradigma e all'interno di quel paradigma mi muovo. Dice, cosa succede quando il paradigma va in crisi? Allora, succede una cosa molto semplice. La società comincia a fare delle domande alla scienza, perché la scienza non è qualcosa di chiuso, di a sé stante, comincia a fare delle domande e la scienza all'interno del suo paradigma comincia a non saper più rispondere. Okay? Cioè, e una volta non sa rispondere, aggiusta un po' la teoria che ha, un'altra volta la aggiusta ancora di più, fino a che tutte queste... tutti questi aggiustamenti non bastano più. È come uno che ha, non so, un paio di jeans, una volta si rompe da una parte e dici vabbè, cucio un attimo, un'altra volta da un'altra parte, poi dopo però quando è tutto rotto dici vabbè, cosa facciamo allora con un paio di jeans tutto rotto? A un certo punto lo buttiamo, no, spero, e ne compriamo un altro. E la stessa cosa vale con il paradigma scientifico. Non so, quando fu il caso di Galileo, all'inizio si accorsero che se la Terra era al centro, come loro prevedevano, come prevedeva la fisica aristotelica, allora a un certo punto si vedeva che le stelle non si muovevano nel senso che dovevano muoversi, insomma che la proporzione tra le stelle cambiava. Allora hanno cominciato a pensare, beh, ma magari una stella fa prima un giro intorno, poi va avanti, si chiamavano epicicli, no? Poi magari gira così, ma come gira? Quante volte gira? Cioè, faceva un po' acqua da tutte le parti questa teoria. E quando la cosa non regge più, finalmente si cambia paradigma. Però lui sottolinea, non è una cosa facile, non è che ho una teoria, non funziona più, la butto via e ne prendo un'altra. Perché, cioè, la verità, e in questo Kuhn secondo me ha ragione, che quando cambio teoria, cambio gli strumenti, il linguaggio, cambio anche il modo di vedere le cose, cioè il mondo mi appare completamente diverso a seconda di come lo guardo. E quindi non è, cioè non è facile. È come, non so, uno che cambia lavoro, cioè uno, vabbè, magari uno cambia, non so se voi cambiate lavoro facilmente, però uno prima che cambia le prova un po' tutte, perché comunque anche se ti trovi male ai tuoi punti di riferimento, non so, casa tua, prima di cambiare siamo un po' fatti in modo, penso tutti uguali, che non è così facile cambiare rotta. E dice, beh, il fatto ancora più importante è che durante le rivoluzioni gli scienziati vedono cose nuove e diverse anche quando guardano con strumenti tradizionali nella direzione in cui avevano già guardato prima. Quello è il fatto veramente sorprendente di Kuhn. Cioè, la rivoluzione scientifica si ha per la società, ok, che impone delle altre domande, e poi tu vedi le cose in modo diverso. Adesso, questo è famoso. Che cosa vedete? Sono abbastanza famoso, quindi... Potete parlare. Ok. Questo è proprio l'esempio, si vede che si può vedere sia un coniglio che una papera, no? A seconda di come lo guardo. E è interessante, e questo è anche un esempio abbastanza famoso, però a seconda di come lo guardo, se lo guardo in quella direzione vedo una papera, se lo guardo da questa vedo un coniglietto che salta. Quindi, e qui cosa vedete? Questo è meno famoso, quindi ho preso posto. Ah sì, è la stessa roccia. Vediamo una coppia, no? Sì, è la stessa roccia. Però adesso, perché siete un po' condizionati, vedete con l'occhio critico, però se uno non lo sa, vede un vecchio brutto e una giovane donna bella, una regina. Invece è la stessa cosa rovesciata. Quindi lì a seconda, e poi anche è interessante vedere che se guardo da qua in su vedo un vecchio, e se guardo da quell'altra parte vedo una giovane, cioè la stessa immagine vedendola dalla prospettiva diversa. Sono in realtà la stessa cosa, se invece io le avessi messe. Subentra la ragione dopo che la percezione. Esatto, però è vero che la percezione, esatto, è proprio la parola giusta, cambia a seconda di quello che noi abbiamo già in testa e a seconda anche di quello che noi cerchiamo. Cioè, se io cerco, guardando il cielo, di interpretare l'oroscopo, vedrò delle cose diverse che se invece cerco di interpretare la velocità di una stella, perché, non so, questa stella rischia di venirci addosso, non so adesso. Un po' inventato. Ok, quindi la cosa sorprendente per Thomas Kuhn era questo, che io cambio proprio anche l'immagine del mondo che ho. Ok, allora la domanda finale, perché poi volevo lasciare spazio alla discussione: esiste un progresso per la scienza? Allora, per Kuhn no, perché alla fine la società impone delle domande alla scienza, la comunità scientifica si sforza per risolvere queste domande, quando il paradigma non serve più, non basta più, con grande fatica lo lascia andare, ma non ha un altro paradigma pronto, ci sono vari paradigmi e alla fine quale vince? Non il migliore, il più adatto a rispondere alle domande della società. Quindi è un po' come Darwin, non vince il migliore ma il più adatto. Quindi è un po' quello, non è la scienza, non passa da uno stadio più basso a uno più alto, ma semplicemente più adatto a rispondere alle domande della società in quel tempo. Però non sono sempre positive, insomma, ricordiamo che nel 45 la società ha imposto alla scienza una domanda che se la scienza non rispondeva era meglio, no? Cioè, avendo fatto la bomba atomica, oppure pensiamo alle armi chimiche, non sempre c'è questo progresso, insomma. Ok, adesso lascio spazio a voi. Dice, si inserirebbe la solita questione scienza e tecnologia, confini dell'una, confine dell'altra, perché bisogna vedere cosa si intende per scienza, cosa si intende per, cioè, la bomba atomica è scienza nella sua applicazione una volta che è lanciata, o è una tecnologia militare, ovviamente molto discutibile, ma la scienza in sé, cioè aver scoperto la fissione nucleare, è di per sé negativo o non negativo? Non è progresso o è progresso? Perché allora lì abbiamo i campi molto difficili, secondo me, che non so se è facile schematizzare come fa Kuhn. No, infatti. Ma il problema di solito si identifica con l'uso che si, cioè la scienza di per sé è neutra, e questa è la risposta mia, poi potete intervenire. È più che altro l'uomo come usa le cose. Certo che più è potente il mezzo, più è, cioè, è possibile per l'uomo fare estremamente bene o fare estremamente male, questo di sicuro. Poi, insomma, però è vero che la scienza è a servizio della società in questo caso. Poi anche dipende da. Si può dire che è al servizio della società o al servizio dell'economia o di certi interessi, diciamo, che a volte la finanza non ha anche un certo senso. Potrei rispondere, visto che abbiamo parlato prima del materialismo storico di Marx. Marx direbbe la società è fatta dai rapporti economici, dai rapporti di forza, cioè i rapporti di proprietà. In effetti è vero, al di là di Marx, che l'economia comunque è la base della società, senza l'economia. Poi in base anche, infatti, al tipo di economia che c'è, abbiamo un tipo di società, no? Cioè, se abbiamo un'economia capitalista, abbiamo un tipo di società, un'economia, non so, senza la proprietà privata, ne abbiamo un'altra, ogni cosa dipende, insomma. Ok, ci sono altre domande? Perché sì, mi piacerebbe. Io volevo chiedere, Kuhn associa anche alla rivoluzione scientifica l'intuizione? Sì, sì, sì. Anche se, ecco, questa è una bella domanda, perché lui parla tanto del genio, ok? E dice che in effetti c'è un'intuizione, però non c'è un genio isolato, cioè non è che uno improvvisamente scopre qualcosa, anche Einstein o Galileo o non so, Archimede, andando indietro nel tempo così. In realtà lui mostra, proprio fa un lavoro da storico, perché lui era uno storico della scienza. Lui mostra come ogni colpo di genio in realtà è stato preceduto da persone che hanno detto, avevano anticipato, avevano scalfinato il concetto precedente. Quindi non c'è mai questa intuizione lampante, per lui non c'è mai, c'è sempre un'anticipazione. Anche nel caso di Einstein, che io ho approfondito per altre cose, si vede che la sua idea del mondo, vabbè, lui è stato il primo a quantificarla in matematica, però effettivamente l'avevano già anticipato, qualcuno l'aveva già intuito, che lo spazio e il tempo erano legati e così via. Quindi la casualità per cui non esiste? Questo è un bel problema, perché cioè, se non c'è il progresso della scienza, non c'è neanche uno stretto rapporto di causa-effetto, cioè, o forse c'è, però noi non lo cogliamo fino in fondo. Forse è la scienza che non può progredire al massimo per scoprire il segreto estremo del mondo, però cioè, in effetti magari il mondo ce l'ha la sua. Sto pensando al bosone di Higgs, che è calcolato matematicamente, non si può dire. In questo caso, cosa direbbe? Beh, direbbe che il bosone risponde adesso a delle esigenze che ha posto la società che prima non c'erano. Cioè questa, perché il bosone, lo spieghiamo un po' per tutti, cos'è? Quella particella capace di dare massa ad altre particelle. Evidentemente adesso la scienza è arrivata al punto che c'è questa esigenza da parte della società di creare, di... anche la storia del bosone di Higgs. Sì, detta anche particella di Dio, è legata secondo me anche a delle esigenze etiche, no? Perché comunque c'è questa crisi della religiosità, questa crisi della spiritualità in generale, e si cerca sempre più di avere delle risposte nella scienza. Allora anche lì si inseriscono dei concetti, insomma, mistici. Grazie. Però interessante. Avete altre domande? O volete che vi spiego qualcos'altro? Perché ho fatto la presentazione corta apposta per dare spazio al dialogo, sì, perché sennò è l'argomento troppo. Ecco, volentieri. A proposito della contrapposizione tra astronomia e astrologia, io mi sembra di aver letto un saggio recentemente che fino a un certo periodo, la storia, diciamo più o meno tempo di Galilei, l'astronomia era considerata scienza come l'astrologia, erano quasi parallele, diciamo, oppure si intersecavano. Poi dopo, a un certo punto, però, c'è stata questa considerazione sì, che l'astronomia, insomma, non può essere scienza. L'astrologia, sì. Astrologia, sì, scusi. Sì, non fa niente. Sì, se pensiamo che Galileo stesso si guadagnava da vivere non facendo lezioni all'università, ma facendo gli oroscopi, quindi già questo dice molto, insomma. Fino a quando la teoria predominante, Kuhn direbbe il paradigma scientifico, era quello tolemaico-aristotelico della Terra al centro, allora in questo paradigma io vedo, quando guardo il cielo, vedo anche il posto celeste di Dio. E allora vedo le stelle come un'interpretazione di luci mosse da Dio e che mi vogliono dire qualcosa, rientra nel paradigma scientifico. E quindi lo vedo proprio dal punto di vista scientifico, è importante vedere quanto si sposta, che disegni disegnano, perché se io penso di essere al centro, nel mio modo di vedere il mondo è come l'anatra coniglio, cioè io quando vedo il cielo vedo un disegno divino. Invece quando poi io capisco che non sono al centro, non sono ferma, ma che la Terra gira, entro in un altro paradigma, che adesso è anche diverso, perché adesso sappiamo che non è neanche vero che il sole sta al centro e noi giriamo, perché anche il sole si sposta, quindi adesso sappiamo che siamo in una periferia della nostra galassia. Comunque, insomma, anche questo cambia la nostra visione. Allora io quando guardo il cielo, adesso cerco qualcos'altro. Al tempo di Kepler o Galileo, anche affermata la teoria galileiana, guardavano comunque un'altra cosa di quello che guardiamo noi. Noi adesso siamo comunque afflitti, almeno gli scienziati quando guardano il cielo cercano anche di rispondere a una domanda che è pressante per la nostra società: ma se la Terra dovesse finire per via di una guerra mondiale, perché adesso non voglio dire cose che portano su, però purtroppo questo rischio c'è, non imminente. Però insomma, magari quando uno pensa ai miei nipoti, ai miei pronipoti, che faranno se dovesse esserci una guerra mondiale? Oppure se il petrolio finisse, ci sono energie alternative, ma se anche quelle finissero, cioè cosa facciamo se non c'è un mondo alternativo? Quindi adesso anche quando si guarda il cielo siamo anche quasi contenti di non essere al centro dell'universo, perché vuol dire che magari c'è qualche altro pianeta che noi possiamo, insomma, in cui possiamo salvarci. Se noi fossimo la cosa migliore, pensate, saremmo anche messi male, no? Perché questo è il meglio. E quindi è vero, no? Poi riguardo a scienza e non scienza, pensate che per Newton, questa è una cosa che dico sempre ai miei studenti, non ci credono, cioè ci credono poco, sono perplessi. Newton considerava tutto il lavoro sulla legge di gravità un lavoro secondario, a lui non interessava quasi niente, cioè lui si considerava un mago e lavorava su queste forze. La forza di attrazione era considerata una forza magica, perché se noi pensiamo, la Terra attrae i corpi, ma cos'è che attrae? È qualcosa che ti vuole attrarre, quindi è come dare una volontà a un corpo, anche questo è qualcosa di magico. La scienza di Newton e Galileo è piena di concetti magici, anche se questo perché, come dice Kuhn, quando si passa da un paradigma all'altro, tante cose cambiano nome ma si trasportano, perché fanno parte della nostra visione del mondo e quindi ce le portiamo dietro. Quindi anche Newton, per dire, lui quando parla della luce dice: ci sono sette colori e tante variazioni tra un colore e l'altro indefinite, no, non le vuole definire. E sapete perché indica proprio il numero 7? Perché 7 era il numero dei pianeti conosciuti ed erano 7 note musicali, per quel motivo lì. Allora dice: devono essere anche 7 colori, non c'entra niente in realtà. Ok, però, oppure mette vari colori vicini al viola, al rosso, e non mette, non so, il marrone non c'è. Poi dice che la luce bianca è la somma di tutti i colori, però alcuni colori si vedono di più e altri non si vedono per niente. Quindi anche lì, insomma, ecco. Volete chiedere qualcos'altro? Sì, forse il rapporto tra scienza e linguaggio. E per Kuhn era importante, quanto no? Perché la scienza è nascosta nelle pieghe del linguaggio. Eh sì, perché ogni concetto, ogni volta che io definisco, infatti all'inizio del Novecento la filosofia si chiede cosa può fare, è l'epoca della scienza, no? Cosa può fare ancora la filosofia, cosa può dire? E c'è tutto questo ramo della filosofia scientifica che dice: ma può solo definire, aiutare la scienza nel metodo e definire il linguaggio. Perché io nel momento in cui dico un concetto scientifico e gli do un nome, già gli assegno delle caratteristiche. Appunto, prima parlavo della forza di gravità, ma questo è ad esempio è uno dei concetti più importanti. Allora, la fisica di Newton, non so se ci avete mai fatto caso, probabilmente no, perché di solito lo si dà per scontato, è piena di forze, no? Forza di gravità, la forza centrifuga, e siamo talmente abituati che non ci facciamo caso, no? Cioè, anche uno mette sulla lavatrice, c'è la forza centrifuga, non è che tutti la conoscono. Però in realtà forza è un concetto, si dice in filosofia, antropomorfo, cioè è un concetto umano, cioè siamo noi che siamo forti, deboli. Il computer non ha forza, non ha muscoli, oppure, cioè se io faccio cadere qualcosa per terra, dico è la forza di gravità, ma il tavolo non ha nessuna forza, non ha dei muscoli che lo attira. Infatti la relatività di Einstein elimina il concetto di forza. Non c'è. Lui che cosa dice? Che un oggetto cade per terra perché lo spazio, adesso è un po' complicato, lo buttiamo solo lì, no? Perché lo spazio in realtà non è come lo vediamo, a tre dimensioni, no? Lunghezza, larghezza e profondità, ma in realtà è curvo dal tempo, e quindi ogni oggetto fa... Avete presente quei teloni dove saltano i bambini? Ok. Allora, quando il bambino salta, si forma un avvallamento. Okay. E lui dice praticamente è la stessa cosa, perché quando c'è un oggetto nello spazio-tempo, si chiama così, crea un avvallamento. E proprio come succede quando io mi siedo sul materasso che si avvalla, e se c'è un oggetto scivola così, la stessa cosa. Quindi non è che uno attrae l'altro, non è una forza di attrazione, ma è lo spazio che si deforma e l'altro scivola. Un po' complicato. Sapete perché è complicato? Perché non riusciamo a immaginarlo. Cioè, però insomma, solo da sapere che la scienza contemporanea, da Einstein in poi, anche la fisica quantistica e tutte le teorie scientifiche moderne, non parlano di forze, perché la forza è un concetto umano. Però è vero che nel momento in cui io do delle descrizioni, dei nomi, delle cose, quelle sono, insomma, cioè influenza il mio modo di vedere. Allora succede quello che abbiamo visto prima, che io vedo una cosa invece che un'altra. Okay. Però la forza continua a essere operativa nelle dimensioni macroscopiche. Io posso continuare a descrivere il moto di un'automobile, sì, anche certo, in termini di forza, quindi ha sempre un valore pratico, se non altro, quindi nonostante sì, sia, cioè. Sì, perché la relatività comunque si riferisce a uno spazio molto grande, e la fisica quantistica, che non sto a spiegare perché magari un'altra volta, ha dimensioni piccolissime, impercettibili. Quindi nel mondo che io vedo, sento, tocco, funziona ancora benissimo la fisica di Newton. Funzionerebbe anche quella di Einstein, però cosa succede? Che sarebbe un po' come per andare in Piazza Walter uso, non so, un carro armato, cioè non, basta una bicicletta, è più comodo, insomma. Essendo la fisica di Newton molto più semplice, allora, e poi è vero che quella di Einstein sarebbe più precisa, però è talmente irrisoria la differenza. Non so, se io misuro l'area di questo tavolo, uso la geometria di Euclide, quella, lato per lato, basta, no? Più semplice. Posso usare anche la geometria di Einstein, però cioè, ho 5-6 fogli di equazioni per poi arrivare a un risultato più preciso, ma a che prezzo? Cioè, più preciso dello 0,0%, quindi non ne vale la pena, ok? Quindi, insomma, a grandi dimensioni sì, però, perché poi... Quindi possono coesistere più paradigmi in realtà. È quello che dice anche Kuhn, a seconda delle esigenze che abbiamo, no? Perché è chiaro che se io devo misurare la distanza di una stella, e lì la precisione ci vuole, allora uso Einstein. Però se devo usare, cioè calcolare, non so, l'area di questa stanza per arredarla, non è che, insomma, devo prendere la fisica di quantistica a fare un sacco di calcoli, un po' esagerato, no? Questo è la cosa seconda. È un po' come quando uno dà un problema a scuola e si vede che gli studenti usano varie soluzioni, c'è chi fa così, c'è chi fa colà, basta che si arrivi al risultato, così dice l'insegnante, no? Basta che risulta, poi come è fatto non importa. Va bene. Questo non progresso della scienza, mm-hmm, è in un'incapacità implicita nostra di comprendere la realtà, o di una mancanza di una vera oggettività della realtà? È soltanto le nostre categorie mentali che non riescono. Beh, per per Kuhn siamo noi che non riusciamo, invece per Popper manca proprio questa verità assoluta, questa assolutezza. Poi è interessante perché in generale la filosofia dopo il Novecento, diciamo dopo Nietzsche, c'è questa crisi dei valori che si comincia, mentre prima si dava per scontato il modo di arrivare a una verità, poi con la metà dell'Ottocento, fino all'Ottocento, per varie cause, un po' storico, un po' scientifico, un po' qua, un po' là, si comincia proprio a dire non c'è una verità assoluta, che è una cosa devastante però, perché cioè, anche Nietzsche, che è stato il padre, diciamo, di questo nichilismo, si chiama in filosofia, questo credere che non esista nulla di certo, anche lui stesso diceva quando lo dico piano perché ho paura dei miei stessi pensieri, perché è una cosa devastante pensare che non esiste una direzione verso cui andare, non esiste un senso, non esiste niente di assolutamente certo. È più facile pensare che magari siamo noi che non ci arriviamo, però poi era anche in linea con le teorie scientifiche scoperte. Mano a mano la scienza nel Novecento comincia a dire che non siamo solo noi che non riusciamo a trovare, ma che addirittura la fisica quantistica sostiene che il mondo a un livello impercettibile, molto molto piccolo, parliamo di grandezze veramente infinitamente piccole che non si possono vedere neanche col microscopio, no? Cioè il mondo a questa dimensione piccolissima addirittura è completamente indeterminato, cioè non è che io non capisco se una particella è qui o è qui perché siamo limitati, ma addirittura si arriva a dire che la particella è sia qui che qui, è da tutte e due le parti, cioè è una cosa che, vabbè, questo sarebbe un argomento in altro, però è in linea con le scoperte che si facevano, che si fanno ancora adesso, che dicono sempre di più che non c'è una verità assoluta, e anche la scienza ha rinunciato, cioè noi adesso la maggioranza della gente è ingenuamente positivista, cioè si crede che ci sia un progresso, però la filosofia della scienza già da un secolo dice che purtroppo, cioè è brutto da dire, però non c'è questa progressione, cioè soltanto un cambiamento. Addirittura poi per Kuhn in certi punti estremizza dicendo ma cioè alla fine il progresso scientifico che non c'è si vede anche dal fatto che quando meno te l'aspetti rispuntano modelli che, per esempio, noi tutti diciamo ah, Copernico un genio, proprio lui sì, però se andiamo a vedere qualche secolo prima di Cristo un greco che si chiamava Aristarco aveva lo stesso modello ed era stato accantonato dicendo che era un'assurdità, invece poi l'hanno ripreso, quindi anche lì c'è un continuo prendere e lasciare, insomma. Okay. Oppure quando Newton studiò la luce, per lui erano dei corpuscoli, no? Erano dei piccoli corpicini che formavano la luce. Contemporaneamente a lui Huygens, che era un altro scienziato, aveva detto no, la luce è un'onda, ed era stato bollato come uno stupido assoluto, ma non capisce niente. Invece poi alla fine dell'Ottocento è tornata l'idea che era un'onda, per poi essere smentita all'inizio del Novecento, per poi dire no, è sia onda che particella, seconda, sì, se adesso allo stato attuale non sappiamo se la luce, cioè a seconda del fenomeno che vogliamo studiare, lo consideriamo o un'onda o una particella, che è una cosa, però la scienza ha accettato questo. Vogliamo studiare come la luce riflette? Allora è un'onda. Se vogliamo studiare altre cose, allora è formata da tante particelle che si chiamano fotoni. Ok. Va bene. Se non avete altre domande. Beh, grazie della serata.